Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. In tutta la mia vita non ho mai dormito meglio di quella notte, anche se mi svegliai un po' prima del solito, e potete star certi che il mio primo pensiero fu per il grande evento della giornata. Mi sentivo perfettamente preparato. In camera mia avevo penna e inchiostro. Ora mi sedetti e scrissi un paio di lettere. Potevano essere, pensai, le ultime della mia vita. La prima era per mia madre. «Onorevole signora», diceva, «questa lettera vi sarà consegnata soltanto se io cadrò per mano del capitano Quinn, che incontro oggi sul campo d'onore, con spada e pistola. Se muoio, muoio da buon cristiano e da gentiluomo. E come potrebbe essere altrimenti, poiché sono stato educato da una madre come voi? Perdono a tutti i miei nemici e chiedo la vostra benedizione da figlio rispettoso. Desidero che la mia cavalla Nora, che mi fu donata da mio zio e che io ho chiamato con il nome della più infedele del suo sesso, venga riportata a Castle Brady, e vi prego di dare il mio spadino con l'elsa d'argento a Phil Parcel, il guardiacaccia. Presentate i miei rispetti a mio zio e a Ulick e a tutte le ragazze del castello che sono state mie amiche. Resto il vostro obbediente figliolo, Redmond Barry. A Nora scrissi: questa lettera verrà trovata sul mio petto, insieme al pegno di cui mi avevi fatto dono. Sarà tinto del mio sangue, a meno che io non faccia scorrere quello del capitano Quinn, che io odio, ma perdono. Sarà un bell'ornamento per te nel giorno del tuo matrimonio. Portalo e pensa al povero ragazzo a cui l'avevi dato e che morì, come sempre era stato pronto a fare, per amore tuo, Redmond. Scritte queste lettere, le chiusi con un grande sigillo d'argento con lo stemma dei Barry, che era appartenuto a mio padre, e scesi per la prima colazione. E qui, come potete immaginare, mi aspettava mia madre. Non dicemmo una parola di ciò che stava accadendo. Al contrario, parlammo sempre d'altro, di chi c'era in chiesa il giorno prima, dei vestiti nuovi che m'occorrevano ora che ero cresciuto tanto. Disse che mi serviva un completo nuovo per l'inverno, se lei poteva permetterselo. Sussultò un attimo su quel sé. Che Dio la benedica, sapevo cosa aveva in mente. E poi si mise a raccontarmi che bisognava macellare il maiale nero e che quella mattina lei aveva trovato il nido della nostra gallina picchiettata con le uova che mi piacevano tanto e altre sciocchezze di questo genere. Alcune di quelle uova erano in tavola e le mangiai di buon appetito, ma mentre ci mettevo il sale ne cadde un poco e lei saltò in piedi con un urlo. «Grazie a Dio!» disse poi. «È caduto dalla mia parte!» E lasciò la stanza. Aveva troppa pena in cuore. «Ah, hanno anche loro i loro difetti, queste madri, ma ci sono altre donne che reggano il paragone!» Quando fu uscita, andai a staccare la spada con cui mio padre aveva vinto il baronetto dello Hampshire. Lo credereste mai? Quella donna coraggiosa aveva legato all'elsa un nastro nuovo. Aveva davvero il coraggio di una leonessa, sommato a quello di una Brady. Poi, presi le pistole, che erano sempre tenute lucide e ben oliate, misi nel cane certe nuove pietre focaie che avevo e preparai palle e polvere in attesa dell'arrivo del capitano. Su un tavolino c'erano chiaretto e pollo freddo, pronti per lui. Nel portabottiglie una bottiglia di vecchio brandy e due bicchierini sul vassoio d'argento con lo stemma dei Barry. Anni dopo, all'apice della fortuna e della fama, pagai l'orefice londinese che aveva cesellato quel vassoio per mio padre. Mi costò 35 guinee e quasi altrettante di interesse. Più tardi, un furfante di usuraio me ne doveva dare solo 16 per quello stesso vassoio. Quanto poco possiamo contare sull'onore di questi commercianti imbroglioni. Alle 11 arrivò il capitano Fagan a cavallo, seguito da un dragone pure a cavallo. Fece onore alla colazione che mia madre gli aveva premurosamente preparato e poi disse: «Ascoltami, Redmond, ragazzo mio. Tutto questo affare è una stupidaggine. La ragazza sposerà Queen, te lo garantisco, e tu la dimenticherai, com'è vero che lei si scorderà di te. Sei solo un ragazzo. Queen è disposto a considerarti tale. Dublino è un bel posto e ti sta bene di farti una cavalcata fin laggiù a esplorare la città per un mese. Eccoti 20 guinee a tua disposizione. Fai le tue scuse a Queen e vattene con Dio». «Un uomo d'onore, Mr. Fagan, dico io, muore, ma non si scusa. Il capitano può andare a impiccarsi prima che io mi scusi con lui». «In tal caso non resta che battersi. La mia cavalla è sellata e pronta», gli dico. «Dov'è il terreno? E chi è il padrino del capitano?» «Lo accompagnano i tuoi cugini», rispose Mr. Fagan. «Dirò allo stagliere di portare fuori la cavalla», dissi, «non appena vi sarete riposato». Così Tim venne mandato a prendere Nora e cavalcai via, ma non mi fermai a dire addio a mia madre. Le tende della sua camera da letto erano abbassate e mentre salivamo in sella e trottavamo via, non si mossero. Ma due ore dopo avreste dovuto vederla mentre scendeva le scale incespicando. Dovevate sentire come gridò mentre stringeva al cuore il suo ragazzo perfettamente indenne e senza un graffio su tutto il corpo. Quello che era successo, posso dirvelo ora. Quando arrivammo al luogo del duello, Ulick, Mick e il capitano erano già là. Queen, sfolgorante nella divisa rossa del suo reggimento, era un vero orco, il più grosso che avesse mai comandato una compagnia di granatieri. Ridevano tutti insieme tra loro, di chissà quale scherzo. E devo dire che queste risate mi parvero sconvenienti da parte dei miei cugini, che dopo tutto si incontravano lì per assistere, forse, alla morte di un loro parente. «Spero di bastare questa allegria», dico io furioso al capitano Fagan. «Confido di vedere presto questa mia spada ficcata in corpo a quel grosso bruto laggiù». «Ah, vi batterete alla pistola», rispose Fagan. «Non siete in grado di affrontare Queen alla spada». «Posso affrontare chiunque alla spada», dissi io. «Ma oggi le spade sono fuori discussione. Il capitano Queen è... zoppica. Ieri notte, mentre cavalcava verso casa, ha picchiato il ginocchio contro il cancello del parco, che balla sui cardini. Oggi non riesce quasi a piegare la gamba». «Non era il cancello di Castlebrady», dico io. «Quello è scardinato da 10 anni. Al che Fagan rispose che doveva essere qualche altro cancello, e quando scesi da cavallo ci avvicinammo a Mr. Queen e ai miei cugini e li salutammo e ripeté loro tutto quello che mi aveva detto. «Ah sì, azzoppato secco», disse Ulick venendo a stringermi la mano, mentre il capitano Queen si toglieva il cappello e diventava tutto rosso. «Ed è una gran fortuna per te, Redmond, ragazzo mio», continuò Ulick, «perché altrimenti saresti bello e morto. Questo è un diavolo d'uomo, non è vero, Fagan?» «Un vero turco», rispose Fagan e aggiunse: «non ho ancora incontrato nessuno che abbia tenuto testa al capitano Queen». «Al diavolo tutta questa storia», disse Ulick. «Non la sopporto. Me ne vergogno. Di che ti dispiace, Redmond? Non ti costa nulla». «Se questo giovanotto se ne andasse a Dublino, come proposto», intervenne a questo punto Mr. Queen, «non mi dispiace. Non chiederò scusa. E piuttosto che andare a Dublino, andrò all'inferno», esclamai, picchiando il piede per terra. «Non c'è altra scelta», disse Ulick a Fagan con una risata. «Misurate il terreno, Fagan. 12 passi, credo». 10, signore», disse Queen con il suo vocione. «E falli corti. Siamo intesi, capitano Fagan?» «Non alzate la voce, Mr. Queen», disse Ulick seccato. «Ecco le pistole». E aggiunse con una certa emozione, rivolto a me: «Dio ti benedica, ragazzo mio, e quando ho contato fino a 3, fai fuoco». Mr. Fagan mi mise in mano la pistola, non una delle mie, che dovevano servire per un eventuale secondo tiro, ma una di quelle di Ulick, Sono regolari, disse, non aver paura. E ricorda, Redmond, sparagli al collo. Colpiscilo là, sotto il colletto. Guarda come si tiene esposto quello sciocco. Mick, che non aveva detto una sola parola, Ulick e il capitano si ritirarono da una parte e Ulick diede il segnale. Lo diede piano. E io ebbi tutto il tempo di prendere di mira il mio uomo. Lo vidi trascolorare e tremare mentre scorrevano i numeri. Al tre, tutte e due le pistole spararono. Udii qualcosa fischiarmi vicino e il mio antagonista, con un urlo spaventoso, barcollò all'indietro e cadde. «È a terra! È a terra!» gridarono i padrini, correndo verso di lui. Ulick lo sollevò. Mick gli sorresse la testa. «È stato colpito qui, al collo», disse Mick. Gli aprì la giubba e si vide il sangue sgorgare da sotto il colletto, proprio dove avevo mirato io. «E tu come stai?» mi chiese Ulick. «È stato colpito davvero?» disse poi, scrutando Quinn. Il disgraziato non rispose, ma quando alla sua schiena mancò l'appoggio del braccio di Ulick, fece un altro rantolo e ricadde a terra. «Questo giovanotto ha cominciato bene», disse Mick guardandomi di traverso. «Faresti meglio a galoppare via, signorino, prima che arrivi la polizia. Erano già stati informati dell'affare prima che lasciassimo Kilwongen». «È proprio morto?» dissi io. «Morto, sì», rispose Mick. «Allora il mondo si è liberato di un vigliacco», disse il capitano Fagan, dando al grosso corpo del caduto un calcio sprezzante. «È proprio finito, Reddy. Non muove un dito. Noi non siamo vigliacchi, Fagan», disse Ulick scontroso, che lui lo fosse o no. «Ora facciamo filar via il ragazzo più presto che si può. Il vostro servo andrà a prendere un carro e porterà via il corpo di questo sfortunato gentiluomo. Questa è stata una brutta giornata di lavoro per la nostra famiglia, Redmond Berry. Ci hai derubati di 1500 sterline annue». «L'ha fatto Nora», dissi, «non io». Tolsi dal mio panciotto il nastro che lei mi aveva dato e la lettera e li gettai sul corpo del capitano Quinn. «Ecco», gli dico, «portale questi nastri. Lei sa quello che vogliono dire. È tutto ciò che le resta di due innamorati che ha conquistato e mandato in rovina». Per quanto fossi giovane, non sentivo orrore né paura a vedere il mio nemico per terra davanti a me. Sapevo di averlo incontrato e battuto onorevolmente sul campo, come si conveniva a un uomo del mio nome e del mio sangue. «E ora, in nome del cielo, togliete di mezzo quel ragazzo», disse Mick. Ulick disse che sarebbe venuto con me, e così galoppammo via senza una tirata di briglie fino alla porta di casa di mia madre. Una volta lì, Ulick disse a Tim di dare biada alla cavalla, perché avevo ancora molta strada da fare quel giorno, e un minuto dopo ero tra le braccia della mia povera madre. Non occorre che vi dica con quanto orgoglio, con quanta esultanza prese dalle labbra di Ulick come mi ero comportato al duello. Insistette però sulla necessità di nascondermi per qualche tempo. Decisero insieme che avrei accantonato il nome di Berry per prendere quello di Redmond e che me ne sarei andato a Dublino ad aspettare che si calmassero le acque. Questo accordo non venne raggiunto senza qualche discussione. «Perché non dovevo trovarmi al sicuro a Berryville?» diceva mia madre, «come Mick e Ulick stavano sani e salvi a Castle Brady. Da loro sbirri e agenti non ficcavano mai il naso. Perché le guardie ci sarebbero permesse di venire da me?» Ma Ulick insistette sulla necessità della mia partenza immediata, e su questo punto devo confessare che stavo dalla sua parte, perché ero ansioso di vedere il mondo. Mia madre fu costretta a riconoscere che nella nostra casetta di Berryville, nel cuore del villaggio, e con solo un paio di servi a far la guardia, in caso di necessità, una fuga sarebbe stata impossibile. Così quell'anima buona dovette cedere alle pressioni di mio cugino, che però le promise che l'affare si sarebbe presto sistemato e che le sarei stato restituito in breve tempo. Quanto poco sapeva di ciò che la sorte mi riservava. La mia cara madre doveva aver intuito che la nostra separazione sarebbe stata lunga. Mi disse che per tutta la notte aveva interrogato le carte per scoprire l'esito del duello e tutti i segni predicevano una separazione. Prese dal suo scrittoio una calza in cui teneva tutto il suo denaro e mi mise in una borsa 20 guinee delle 25 che aveva. Poi mi preparò una valigetta da mettere in groppa alla cavalla, con dentro i miei vestiti, la biancheria e una cassettina da viaggio in argento che era stata di mio padre. Mi disse anche di tenere la spada e le pistole che avevo mostrato di saper usare come un vero uomo. Adesso era lei ad affrettare la mia partenza, anche se sapevo che si sentiva stringere il cuore. Meno di mezz'ora dopo il mio arrivo, ero di nuovo sulla strada, con il vasto mondo, per così dire, aperto davanti a me. Non occorre che io stia a raccontare quanto piangessero Tim e la cuoca alla mia partenza. Può darsi che avessi anch'io qualche lacrima agli occhi, ma nessun ragazzo di 16 anni è molto triste quando gode per la prima volta della sua libertà e per giunta con 20 guinee in tasca. Cavalcai via pensando, e lo confesso, non tanto alla mia dolce madre rimasta sola, né alla casa alle mie spalle, quanto all'indomani e alle meraviglie che mi portava. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.